licenziato la cameriera, or vi dirò che bel tipo era. Ho licenziato la cameriera, l'ho messa fuori di gran carriera, ed il mio cuore soltanto spera di non vederla più tornare. Aveva preso la malattia che tutti chiamano getmania, è un ramo nuovo della pazzia che tutto il ritmo fa cantare. Sempre piatti sporchi, sempre letti da rifare, ma in compenso a pranzo c'era ritmo da sprecare. Ho licenziato la cameriera, l'ho licenziata ma lei non c'era, era in cucina se la rideva e mi ritmava trovato. La mia cameriera è un tipo singolare, e il ritmo l'ha ridotta pazza da legare. La carne in pure sta storiare e mi ritma celemare, ma l'ho licenziata finalmente per sentirmi da quell'incubo costante liberare. L'ho messa fuori di gran carriera ed il mio cuore soltanto spera di non vederla più tornare. Aveva preso la malattia che tutti chiamano getmania, è un ramo nuovo della pazzia che tutti in ritmo fa cantare. Sempre piatti sporchi, sempre letti da rifare, ma in compenso a pranzo c'era ritmo da sprecare. Ho licenziato la cameriera, l'ho licenziata ma lei non c'era, era in cucina se la rideva e mi ritava il trovatore. La mia cameriera è un tipo vero originale, forse sola sola lei passeggia al festival. Ma il cuore mio soltanto spera di non vederla più tornare.